collettivo Tommy Smith del Cavour. E oggi siamo qui in piazza come studenti e studentesse di Roma per chiedere innanzitutto visibilità al tema della violenza di genere, ecco. E la situazione nella nostra scuola è in parte critica perché appunto c'è zero formazione all'interno delle scuole per quanto riguarda professori che non sanno come comportarsi nei confronti degli studenti. Ultimamente nel mio liceo, appunto il liceo Cavour, c'è stato un accaduto a stampo transfobico e appunto abbiamo visto anche accaduti sessisti al Plinio e all'Albertelli, e questi sono elementi davvero fondamentali che non rappresentano dei singoli accaduti e delle cose eccezionali, ma rappresentano proprio un problema sistemico che c'è all'interno della nostra cultura, che è esattamente patriarcale e si riflette su di noi ogni giorno, e appunto nelle scuole si può vedere questa cosa.